L'autore era un pezzo grosso, quindi, perché Ricardo Pérez Hernández non è, insomma, uno scienziato, quindi una persona di una certa cultura. Diciamo che questo racconto, quindi questo che è un fatto storico, è situato a città in Messico. E risale al 15 agosto del 1977. Avremo modo anche, dico due parole sull'autore. Quest'autore è il dottor Ricardo Pérez Hernández, che peraltro è da tempo deceduto, proprio a Città del Messico, il 15 febbraio del 1978, cioè 6 mesi dopo la pubblicazione di questo testo. Lui era sposato e non aveva figli. Era, ripeto, una persona di elevata caratura culturale, era uno scienziato, quindi masticava bene alcune cose che troveremo dentro l'opera che rendono alcuni passaggi di essa, a detta di qualcuno, un pochino complicata, perché continuiamo a parlare di cenni della teoria della relatività di Einstein, di velocità di luci, di atomi, di fotoni, di elettroni, di fissione nucleare, di fusione nucleare, insomma, quindi, insomma, adesso non voglio spaventare nessuno, però. E questo dà anche, come dire, una idea che il soggetto, quindi la persona che è stato destinatario di questo evento del tutto peculiare, era un uomo di scienza, quindi non era un credulone. Ecco, noi ci lasceremo quindi guidare da lui in questo viaggio del tutto particolare. Vedremo, è sempre Tenera Amata, è semplicemente una ragazza che nel momento in cui si manifestò a quest'uomo viveva già la vita gloriosa del cielo e gli racconta qualcosa, beh, insomma, più di qualcosa. Un'ultima annotazione, altrimenti riceve una montagna di domande. Il testo è disponibile su Amazon. Quindi sia il cartaceo che il digitale, per chi vuole leggere il testo, lo trova tranquillamente disponibile su Amazon. Comincerei a questo punto la lettura, lettura che ovviamente cercheremo di commentare. Tutto accadde in un pomeriggio afoso di domenica di estate. Dopo pranzo, soddisfatto e accaldato, vuole riposarmi e svagarmi. Vedendo alla televisione un programma di cartoni animati, mi feci una tazza di caffè senza caffeina, mi accomodai sulla mia vecchia poltrona e accesi una sigaretta. Se non mi divertivo, era sicuro almeno che mi sarei addormentato. Su un tavolino metallico d'ingombro, più volte rotto e altrettante risaldato, misi alla mia sinistra la tazza di caffè e il pacchetto di sigarette. Alla mia destra, sull'ampio bracciolo della poltrona, il portacenere con la sigaretta. Senza animo critico, col solo desiderio di divertirmi, mi lasciai portare dal classico argomento. Il pupazzetto buono sarebbe stato esaltato per il suo coraggio o la sua virtù, e il cattivo battuto o punito senza pietà. Ad un certo punto l'immagine rimase fissa sullo schermo. Non sentivo nessun rumore. Nemmeno i veicoli che col tubo di scarico aperto continuamente circolano per il vicino viadotto Tlalpan Sud. Pensai ad un guasto del televisore. Stavo per alzarmi quando mi accorsi di qualcosa di sorprendente. La colonna di fumo della mia sigaretta rimaneva paralizzata, come una bianca filigrana incapace di finire il suo logico svolgimento. Soffiai sul fumo e nemmeno si mosse. Incominciò a preoccuparmi una sensazione che un qualche potere strano, insospettato, si esercitava su di me. Regnava una quiete assoluta. Mai avevo sentito un silenzio così profondo. Nemmeno percepivo, per quanto tendessi l'orecchio, il rumorio della cuoca che poco prima mi molestava. Un freddo intenso, al quale sono sempre stato molto sensibile, aveva paralizzato tutte le mie articolazioni. Ma non si trattava del freddo invernale che ben conoscevo, ma di un altro, diverso e doloroso. Credevo di essere vittima di un incubo, da cui urgentemente dovevo svegliarmi. Pensai di essermi mal accomodato sulla poltrona e che perciò soffrivo un simile sogno. Cercai allora di alzarmi, ma il mio corpo sembrava di piombo. A stento riuscii a muovere le mie mani attaccate ai braccioli della poltrona da una forza misteriosa. Sono forse infermo, dissi a me stesso. Ma di che cosa, se un momento fa mi sentivo bene? La mia preoccupazione diventò stupore e poi paura. Non potevo comprendere ciò che stava accadendo. Incominciavo a disperare di timore e di freddo quando, in mezzo a quel gran silenzio, sentii una voce femminile, molto gradevole, che dall'inferriata dell'atrio mi chiamava per nome. Con difficile sforzo, mosso allo stesso tempo da paura e da desiderio di compagnia, mi affrettai a venire da lei. Non so come mi alzai dalla poltrona e non diedi importanza in quei momenti a che i cardini della porta della stanza, come anche gli stessi miei passi, non facevano il loro caratteristico rumore naturale. Traversai barcollando il cortile che separa la stanza dall'inferriata dell'atrio. I piedi mi pesavano come due blocchi di acciaio. Mi trovai davanti all'inferriata con una bellissima ragazza sui 20 anni, alta, molto ben formata. Gli occhi di colore caffè chiaro, bellissimi ed espressivi, grandi e dolci, infantilmente limpidi, irradiavano un'immensa felicità. Le sue labbra erano piccole e sottili, ben disegnate e molto rosse, ma senza nessuna pittura. Le guance, terse e leggermente rosee, presentavano al ridere due attrattive fossette. Contemplai estatico la sua bellezza. Quando abbassò gli occhi dinanzi al mio insistente sguardo, osservai la limpidissima cute del suo viso. La sua espressione mi apparve serena nella sua gioia, ma di un'insolita serenità che oltrepassava la tenera giovinezza del suo aspetto. Era vestita come in genere vestono attualmente le ragazze di un ceto medio. Credo che il suo vestito, fine e semplice, era di color crema. Non vidi nessun gioiello, ma non ne aveva bisogno, perché la sua bellezza splendeva per se stessa. Il guardarla mi tonificò. Dimenticai le mie preoccupazioni di poco prima. Era la donna più aggraziata che avessi mai visto in vita mia. Possedeva quel tipo di bellezza che mi ha sempre affascinato. Non potevo smettere di ammirarla. Tuttavia, la mia abitudine di compiere i convenevoli sociali non mi permise di continuare ad osservarla. Ma ero certo di scoprire in lei molte altre qualità incantevoli. Finezza nel suo atteggiamento, sottili tratti di maggiore bellezza, affinità di ideali, insomma, qualcosa in più di ciò che percepivo nei miei primi sguardi e che mano che li andavo scoprendo avrebbero fatto rivivere in me quel meraviglioso sentimento dell'amore che non sperimentavo da molti anni. Per il momento decisi di adoperare tutte le mie povere armi psicologiche per indagare tutte le sfumature della sua attraente personalità. Come mi dispiace non esserci riuscito. Perché la mia incantevole visitatrice era molto al di là della mia portata. Lei mi salutò come se mi conoscesse bene. Vengo a visitarti da molto lontano. Sono di San Luis Potosí. Ma tu non ti ricordi di me? In quel momento non capì la trascendenza delle sue parole. La città di San Luis Potosí non è molto lontana. Insomma, sono comunque 500 km a nord di Città del Messico. Per il Messico non sono grandissime distanze, però insomma, supponiamo che chi parte da Roma 500 km è arrivato quasi a Milano, insomma. Mi venne in mente che fosse la nipote di qualche amico mio. Ma di chi, se sono più di 30 anni che non vado in quella città? La sua bellezza, oltre ad essere affascinante per me, possedeva una certa rassomiglianza che mi riusciva familiare. Mi ispirava una simpatia, un'affinità. Al di là della nota attrattiva che l'archetipo della mia donna ideale ha sempre avuto su di me, questa meravigliosa donna pareva di riportare alla mia memoria qualcosa. Qualcosa di speciale che sul momento non riuscivo a ricordare. Ci siamo conosciuti a San Luis Potosí, aggiunse sorridendo, in casa delle signorine Campos. Per quanti sforzi facevano la mia memoria, non indovinavo. Le signorine Campos erano per me un ricordo di più di 40 anni indietro nel tempo. Entra, per favore, le dissi. E mi affrettai ad aprire l'inferriata, chiedendomi chi sarebbe quella visitatrice. Quanto più la guardavo, tanto più mi affascinava. Soltanto quel tremendo freddo insopportabile. Nel passare davanti a me potei contemplare i suoi capelli sciolti, lunghi quasi fino alla vita, molto sottili, morbidi e castani, con tanti fili d'oro, il cui splendore accentuava il luccichio dei suoi occhi. Mi sembrarono appena umidi, con odore di pulito, ma non potei percepire nessun odore. Soltanto dopo ne seppi la ragione. Quando attraversò il cortile, inciampò al calpestare uno dei gradini. Mi affrettai a sorreggerla. Le mie dita sfiorarono appena il suo avambraccio, leggermente bruniccio e con sottilissimi veli dorati. Il lieve tocco della sua pelle ebbe su di me un effetto magico. Mi produsse una gradevolissima sensazione di calore e vitalità. Successivamente sarei rimasto meravigliato nel conoscere la causa. Entrammo nella piccola stanza. E mentre il suo sguardo passeggiava sulle scarse ed antiquate decorazioni della stanza, approfittai per contemplarla meglio e sentii di nuovo quella vecchia sensazione, quasi dimenticata della mia infanzia, una certa piacevole oppressione in non so quale parte del mio petto, che mi avvisava della presenza della donna amata, mediante una gradevole difficoltà nel respirare. Era proprio da ridere, un povero anziano innamorato. Oppure da piangere, innamorarsi quando manca un quarto d'ora alla mezzanotte. Tuttavia, io mi rallegrai. Lei si mostrava amabile, affettuosa, comprensiva. Probabilmente si sarebbe già resa conto, con la sottile perspicacia dell'adolescenza, del profondo interesse che mi ispirava. E forse per quel sentimento di generosa compassione di ragazza bella, cosciente del potere che le dava la sua bellezza, mi concedeva un'elemosina di affettuosa gentilezza. Avrei dovuto ribellarmi dinanzi al suo dono compassionevole, e invece no, accettai con gusto il regalo del suo sguardo dolce e le fui grato della sua cordialità, come si sente gratitudine per i piaceri semplici della vita, come si gode alla vista di un bel paesaggio, del gorgheggio degli uccelli o della carezza di una tipida mattina. Sarà che nella maturità accettata, nel consumarsi la vita, si va cancellando l'orgoglio. Ricordo che ti piacque moltissimo, mi disse, una melodia che cantai in casa delle signorine Campos, ormai molti anni fa. Molti anni. I giovani pensai contano i mesi come anni. Non potevano essere poi tanti per una giovane ventenne. Probabilmente mi sta scambiando con un'altra persona. Vabbè, ma non fa niente. Benedetto sbaglio che mi permette di godere della sua presenza. Vedrai, continuò, questa canzone la cantai 48 anni fa, apro una piccola parentesi perché vado un pochino avanti nella lettura, poi facciamo un commento.